Franco, ci sei? Attento Franco. Sì, chi è? Chi è che ti sento? Ciao fra. Niente? Come mai? Allora. Ci sta. E allora, cosa deve fare? La deve riprendere, comprarla. Ebbene sì, vuole della stessa lunghezza, per forza, perché quello fa parte della lunghezza fisica dell'antenna, e cioè dello stilo centrale. Capito? E quello è. E vabbè, va, lo può fare più o meno a memoria, così, a memoria, e poi provi. Un minimo di tolleranza, poi con la molla riesci a recuperare. Sì, sta uscendo lo stesso, a voi deve essere uscendo, non c'è problema. Vabbè, segnale è basso, vabbè, ma è anche bassa l'antenna, sì che 8, modulato 9. Beh, certamente sì, i radiali sono il piano riflettente, no? Se non ci sono radiali non riflette. Praticamente stai andando col polo caldo e basta. Beh sì, ma se per quello provvisorio mettere 2, 3 di radiali e basta, anche così va bene. Perché ieri 9-5 con i radiali, e dunque se ne metti un paio va bene lo stesso, oppure fai uno sì o uno no, ne metti 4 e basta. Però vabbè, io già sono qua, poi quando hai fatto chiama. Tu sei fra? Ciao Giulio, sono Daniele. Ciao. Come va? Senti là, avanti, là, ci sto andando, alcune cose qua giù. Sono qua, sto aspettando Franco, che sta facendo un lavoro all'antenna e rientra subito. Brava, brava. Già va bene, già va bene. Bene, ti sta arrivando a quelle parti giù. Benissimo, mi stai arrivando. Sì, con questo baracchino. L'orbita mi segna 9,5, però no, non ci fare caso, perché è un baracchino di 50 anni fa ed è vecchio e dunque non è affidabile come segnale, capito? Però 9,5 sta segnando, la radio è perfetta. Va bene, e non senti più gli elicotteri volare? L'elicottero di cosa? Dico, l'elicottero non lo senti, le ventole. Ma devo dire che non lo sento, no, e questo è un po' sordo in quanto a queste cose qua, non ha una grande ricezione, capito? Per cui è quello che ti sto dicendo, il controllo che ti do non è così affidabile per niente. Brava, brava, già va bene, già va bene Giulio, qua si stanno dando alcune cose piano piano. Che tracca rock and roll. Ok, infatti. Adesso aspetto che rientra Franco, perché sta facendo un lavoro all'antenna. Per cui devo vedere come esce. Eccetera, eccetera. E beh, oggi non stai lavorando a Duanier. No, io sono fermo da giugno. Addirittura, capita, io non lavoro. Lo dico io. Vabbè, purtroppo è un momento molto difficile questo, lo sappiamo, però ecco che te la vuoi prendere, boh. Ho mollato alla fine, non faceva più, vabbè dai, non voglio non fa cosa. Vabbè, piano piano già, ti troverai di nuovo e risolverai la situazione di lavoro, e vabbè dai. Si sente molto bene lo stacco del microfono, quando si sente molto bene. va bene, meglio così, dai. Già funge tutto qua. Ok. Va bene, cosa dire? Vediamo un po' se stasera entra qualcuno a scambiare quattro chiacchiere al baracchino. Che sta entrando pochissima gente, e quando entra molto tardi, verso le 7, praticamente quando vorrei chiudere per la cena. Vabbè, tutti tardivi sono diventati. Allora, qualche giorno non sto facendo pensioni e niente. E poi non avevo più voglia di accendere. Sì, vabbè, quello sì. E hanno messo la gente, altri figli, altre cose da fare, anziché pensare al baracchino, si fa le cose più importanti, è normale, no? È così. Brava, brava. Bella giornata oggi, ero su in Mansarda, in terrazza, c'era un sole meraviglioso, anche caldo. Finalmente, dopo fine settimana burrascoso, diciamo, si è ripreso il tempo, meglio così, dai. Beh sì, speriamo che continui buono, perché ma comunque qualche altra giornata di più già la farà, magari sarà una pioggia abbastanza leggera, però suppongo che la faccia, maggio, adagio, come si dice, e poi giugno apri il pugno. Così è, Gio. Basta con le piogge adesso, basta. Ci vuole un po' di caldo, una stagione, e niente, sperando che si possa uscire piano piano. Quello è importante, quello è molto importante. Ma col caldo dovrebbe diminuire questo problema che c'è sempre, accidentaccio, gazzita, ma quando? Ma chi è quello deficiente che ha inventato questo virus, gazzita? Dicono che sia dalla Cina, ma io e chi lo sa come fa a dire certe cose. Ui, gazzita, siamo già un anno e mezzo così, non è due giorni, è un anno e mezzo. E chissà quanto dura ancora. Purtroppo dobbiamo ancora conviverci, speriamo ancora per poco, perché adesso è basta con questa cosa giù. Bisogna tornare un po' alla vita normale, però già si sono ripresi i cinesi, hanno la sorte, sono loro. Ho visto che hanno fatto anche la prova di, adesso mi ricordo dopo, di fare un concerto tutti senza mascherina, col tampone, e adesso tra un po' si vedranno i risultati, qual è successo. Infatti, sì, ma in effetti è così, tutta la gente è incosciente, io capisco che ha voglia di uscire, voglia di tornare alla vita normale, però se noi non siamo corretti con la mascherina e tenendo le distanze eccetera, e allora la cosa non è che si blocca così in fretta, ci vuole anche un pochino di intelligenza, ragazzi, ma quando mai certe persone poi ne subiscono le conseguenze tutti quanti, perché non è possibile quello del concerto e quella festa che hanno fatto, perché l'Inter ha vinto il campionato lì a Milano, capita, c'erano 30.000 persone tutti quanti uno dietro l'altro festeggiando, ballando, facendo festa. Che gente ignorante, imbecille, capita. No, non va bene così, non va bene. Ma la colpa è anche del governo, che non è in grado di mantenere, di fare rispettare l'ordine, assolutamente. Per conto mio, io la penso così. Sì, avanti Franco, sono con Daniele, avanti Franco. Accorda, dai, accorda bene, dai. Ciao Franco, buonasera. E c'hai ragione, Giù, si conferma, è così. Il vaccino fatto, vai Giù. No, io ancora no. Adesso mi faccio prenotare dal dottore di base e vediamo un po' cosa decidiamo. No, ancora no. Non l'ho fatto perché io avevo necessità di sapere cosa potevo fare per il fatto della terapia che sto facendo, così ogni tre mesi, per cui avevo necessità di chiedere al dottore che mi sta seguendo dell'ospedale, per cui mi ha detto, dice, devi andare dal tuo dottore, devi andare, e lui ti fa la prenotazione e così ti indirizza quello che devi fare. Vabbè, facciamo così e farò così. Franco, vediamo. Io ti sento, certo che ti sento. Sì, ha aumentato leggermente, ma non più di tanto però. Sì, adesso è 9, è 9, però la radio si è un po' saturata come hai aumentato. No, così come adesso no, come l'ultimo passaggio che avevo fatto prima di questo è uscito un po' la voce saturata, non so, forse perché stavi accordando ancora. Daniele da Sassari, vai Daniele per Franco a Sosso. Ciao Fra, ben sentito, qua sei 9 di segnale, forte e chiaro, va bene. Dopo tanto tempo, sì. Va bene, li ascolti da quale parti, Fra? Già va bene, anche lì arrivo, via. Porca miseria. Sì, è corda, ci arrivano 9, prima eri 8, adesso sei 9, per cui, vabbè, con l'accordatore già va bene, non c'è problema. Eh beh sì, minimo, almeno un minimo di piano riflettente lo dovevi avere. Prima eri senza piano riflettente, infatti eri 8, prima eri 8, adesso sei 9, qui da me. No, non fare affidamento a questo smitter che ti sto dando io, segnalami, perché si sa, è uno smitter magari a conto suo. Ma comunque ha aumentato, ma dopo che hai messo questi 4, quando l'hai messo? 4 li hai messo. Bello, che certo, no, per forza ti non va bene, casomai muli i bulloni e giri il tubo tutto insieme e ti porti la parte dove devi attaccare e te ne porti verso la parte comoda, no? Non usare quello grande, no, se l'antenna non è a posto non usarlo, usa il baracchino e basta, va bene. Ma ti sentiamo lo stesso qua. Avanti Daniele. E si conferma, sì, anche qua sei 9, fra. 9 di segnale, va bene. Prima di. Mi fa che ti ho sentito di più basso. Sentirsi poi forte e chiaro per il resto lasci il sistema. Ok, ciao, allora dai, buona luce, ci sentiamo più tardi se coincide, senz'altro. Avanti Daniele per salutare a Franco. Vabbè, fra, dai, buon proseguimento e buon tutto, alle prossime se coincide. Riprendi giù. Ok Daniele. Vabbè, purtroppo anche le antenne alle volte si rovinano e hanno bisogno di manutenzione. E va bene, succede. purtroppo così. E pensate che era una buona antenna quella, perché era una mantova, la mantova a tubo. Però anche la mantova a tubo si può rovinare. Sì, bisogna fare un po' di manutenzione ogni tanto. E poi quando va in dono ce n'è. E vabbè, poi da poco la sua sistema. Ok, tu cos'hai? La Energy hai come antenna? Daniele, cos'hai tu come antenna? La Energy? E si conferma di un Energy 50 bicio. E per adesso già sta andando. Sì, sta andando, a Puglia si sta andando, altro che. Stiamo dicendo, ma prima che avevi la mantova, non c'era più la mantova? Cosa è successo? Sei distrutta? No, avevo tolto tutto, Giulia. L'avevo tolta perché non stavo rendendo come doveva rendere, capito? Ti ricordi c'era quel problema? Che avevo messo solamente quei 4 radiali perché gli altri poi andavano a toccare sul tetto. Ed era poi un macello da muoverla, capito? Per sistemarle e tutte cose. Invece con questa che diciamo è alta, sì, però è più maneggevole, più leggera anche. Sì, l'energia è leggera, lo so, certo. Pesa molto, ma molto meno della manta, ma certamente sì. Ma già rende bene lo stesso, già rende, già, in Puglia. Non c'è problema, va benissimo. Tanto bene. Per parlare fra di noi e poi puoi parlare anche fuori, non c'è problema, quando c'è preparazione anche con l'antennino ti sento lo stesso, Daniele. Sì, ho provato la boomerang, avevo procurato, poi la Ringo, poi c'ho questa Energy che anche se è vecchiotta, però il suo lavoro lo fa, se quanto regge, poi io l'ho messo a provare, poi se quanto regge e va, la tengo, poi si vedrà. Ah beh certo, finché funziona, è chiaro, te la usi, se poi quando non funziona più, ecco più l'altra è ciccia, per cui non c'è problema. Già va bene. Ehi, ce l'ha anche Marco, ce l'ha la Energy, e poi ce l'ha anche qualcun altro che adesso non mi ricordo che, comunque ce ne sono un paio ce ne sono piazzate Energy. Sì. No, ma già vanno bene, e poi non è nemmeno molto costosa. Vanno benissimo, do 50-60 euro la compri, un'antenna del genere. Sì, infatti. E credo che anche con la Ringo andava bene. Anche la Ringo già fungeva bene. E che l'ho fissato con l'Energy. E niente. C'ho già un paio d'anni in sali piazzata. E già fatto dei collegamenti, dai, già va bene. Sì, io voglio se fa i collegamenti, io voglio. Se quando c'è preparazione i collegamenti li fai. Strano che oggi non se ne sente preparazione, ieri c'era ancora, a mattina ieri lo stesso c'era. Infatti a mattina ieri ho fatto con questo baracchino vecchio, io ho un vintage in questo momento, 3,5 watt, mi sta dando di potenza, niente di più, è un baracchino di 50 anni fa. Per cui, però ho fatto lo stesso il collegamento con Barcellona e poi con la Svizzera anche, oltre che con l'Italia, ma per dire no, quando c'è propagazione, quando arriva la propagazione anche con l'antennino riesce a fare il collegamento. Sì Giulia, ti ho sentito anche l'altro giorno, spagnoli o chi c'erano, in sottofondo li sentivo, che stavano arrivando, adesso piano piano riprende, queste sono belle giornate. E infatti adesso incomincia il tempo buono e dunque la propagazione si aprirà sicuramente e durerà un bel po' di giorni, speriamo bene comunque. E se non si apre pazienza, parliamo fra di noi, è uguale. E non è. Non va bene lo stesso, non c'è problema, Dani. Poi si va a fare combattimento al 45. Ma io su 45 non ci vado mai, no. Lì ci sono camionisti, sono un po' disordinati nel modo come muovono uno sull'altro, per cui no, non è un canale che mi piace. Casomai me ne vado più in alto, me ne vado tipo canale 50, canale 52, una cosa così, dai. Anche ancora più in alto, anche sino al canale oltre 60, e lì c'è più tranquillità quando c'è propagazione, meno affollamento, e soprattutto più corrette sono le persone, non si accavallano come fanno su 45, che è una bugia, su 45, per carità, ui. Vabbè, lì è una guerra, che è passato di più, che è più forte. Perché ci sono, lì ci sono, sai, sempre sintonizzati, ci sono sempre i camionisti, con quei lineari che hanno enormi, di potenza enorme, e allora poi non gliene frega niente, loro si accavallano uno sull'altro proprio, a chi spinge di più. E dunque cosa ci fai? È troppa confusione lì. No, preferisco altri canali sono più tranquilli, più con meno affollamento, almeno puoi fare il collegamento, se no quando c'è troppa gente è un casotto, non va bene, assolutamente no. Cara, vabbè Giulia, dai, che adesso qua continuo, che posso andare a quelli di PL. E poi ci aggiorniamo più tardi, se coincide, dai. Ok Daniele, 9:10 adesso, ha scaldato quella radio, 9:10 adesso stai arrivando, prima di 9:05 adesso sei 9:10, ultimo comunque, va benissimo, alla grande. D'accordo Daniele, dai, ci sentiamo quando succede di nuovo, che coincidono i tempi, ci sentiamo con piacere, dai. Ciao Daniele, alla prossima allora, dai. Cavaliero, retro Giulia, dai. Buon proseguimento e buon tutto. A dopo, alle prossime, se coincide. Buon proseguimento di serata. La corrente, perché per lui se la paga, però non va bene, non va bene assolutamente, vuoi cosa vuoi che ti posso dire? Cosa ti posso dire? Che è uno stupido e basta, niente di più. Infatti, già si stancherà prima o poi. Comunque, le foto di ieri viste gli hai? Sì, le ho viste. Sì, le ho viste, sono interessanti. Perché sono tutti incelofonatemi, è per quello. Lo so. Sì, sono interessanti, e vabbè, d'altronde. Ma sono nuove, sì. Nuove ancora in busta sono, quello è. Figuriamoci. Vabbè. E come mai hai fatto il carico di queste antenne e non le hai usate? No, ce le ho io, Giovanni. Io stavo pensando a mettermi quella per i 50 MHz, dato per ascoltare un pochino di propagazione che scende ogni tanto. E invece ci ho pensato e ho detto, faccio prima a darla. Faccio prima a venderla, vado a qualcuno e poi penso a fare qualcos'altro. In effetti, per 50 mega c'è una pochissima attività. Poi lì, quando vado lì, quella frequenza sono tutte in digitale, la maggior parte, dunque non senti niente. No, casomai per altre frequenze va bene, ma 50 mega proprio. Questa radio che c'ho io è digitale, non è analogica. Cos'è digitale, ce l'hai tu? Il 7000 è digitale. Fa tutto quanto in digitale il 7000. Non lo so. Non lo so, veramente. Non te lo so dire. Ma è una radio piccola ma completa. No, veramente è bella questa radio. Se me ne offro un'altra più scarsa, lascia perdere. Preferisco sempre questa. Certo. Mi avevano mandato una fotografia un amico l'altro giorno. No, sono delle belle apparecchiature, interessanti, veramente. No, è bella come radio. Preferisco adesso più questa che il 706 oppure il 140, anche se non si attiva il compressore in confronto al 706, però preferisco sempre più questa. Certo. Ma non si attiva perché in questa frequenza, cioè in AM non si attiva, magari nelle altre bande sì. Sì, negli altri sì, tutte quante. No, solamente in AM che non agisce il compressore, però tutte quante le altre le stuzzica come niente, proprio si fa sentire che lì. Indubbiamente sì, è fatto così. Anche perché la M si sa, la M per la banda cittadina e basta, per cui è per quello che non si attiva, capito? E allora, però per le altre bande già non credo che va. Ho voglia. No, comunque c'era anche propagazione poco fa, me la stavo ascoltando, sicuramente sono o camionisti oppure Germania, perché stavamo parlando in una lingua tipo tedesco, roba del genere. Sì, qualcosa ho sentito anch'io, non più di tanto, perché con questo baracchino non è che ho una buona recensione, però qualcosina già ho sentito anch'io. No, poco fa stavo parlando con Franco di Sorso e con Daniele di Sassari, poi si sono dovuti allontanare dal baracchino. E allora sono rimasto in ascolto e sentivo così un po' di propagazione, ma niente di particolare, tutta in lingua straniera. Bello era l'altro giorno che abbiamo sentito quelli di Cagliari, lunedì mi sa, o domenica. Quello di Cagliari era bella quella propagazione, quello della Sicilia lo stesso. Di Cagliari? No, io non l'ho mai sentito di Cagliari, la Sicilia va bene. Quelli di Cagliari non li ho mai sentiti, mai, in tutti questi anni, mai. Da fuori sì, anche io ho avuto ieri con Barcellona, poi con la Svizzera e poi anche alcune alcune città della Sicilia, Catania ad esempio, l'altra qual era, se ricordo bene, Vibo Valencia, boh, una cosa del genere, come si chiama, boh. Vabbè, quelli sì, ma la cadere mai? C'era la propagazione, abbiamo sentito Lecce e poi abbiamo sentito Cagliari, Capoterra. C'è la propagazione di Capoterra, infatti ho detto quando voi c'è questa propagazione vuoi sentirci, siamo al canale 10 noi, sì sì va bene, quando c'è propagazione ci provo, ok va bene, alla prossima. Comunque ci ha dato dei segnali buoni, ci ha dato dei segnali che belli, radio 5, bella forte ci ha detto, segnale 9+10, tranquilli, senza spingere molto. Vabbè, meglio così. Vabbè, con Lecce ci parlo sempre io, anche perché c'è un amico anche su YouTube, alle volte scrivo qualcosa su YouTube, lui mi risponde, tipo saluti eccetera. Lecce, provincia di Lecce più che altro, non proprio Lecce città, ma comunque anche Lecce città e a Puglia. No, ma anche dall'Alta Italia avevo sentito, tutti avanti, anche dall'Alta Italia, non mi ricordo dove era adesso, ma in alto, Vicenza mi sembra, da Vicenza, se ricordo bene. E poi qualche altro, ma non è che c'era una grandissima propagazione, però il baracchino che io ho in questo momento non è un granché, per cui non è che posso fare più di tanto, capito? E che baracchino è, Giovanni? Quello che sto usando adesso è l'HB23, quello che avevo ieri invece era il Cobra 139, stazione fissa, quello, ma sono più o meno uguale. Scusa che mi stanno chiamando al telefono. Ok, là, già sono qua. Avanti. Guarda che oltre a soffiare puoi anche parlare a me. Scusa che sto provando il microfono, poi entro, scusa. Ok. Sono rientrato, Dani. Era una di quelle call center che rompono le scatole a poter perdere tempo. Di quelle ne ho mandato a quel paese un paio. Ho detto che io lavoro durante il giorno, non gioco come loro. Già lo credo. No, ho chiuso subito, no, tanto mi interessa lì, anche perché no, era un numero che non mi risultava, dunque era uno sconosciuto per me. Era una donna che stava parlando un po' con la lingua italiana, sì, però come quando una parla straniera, dai. Allora ho chiuso subito, non mi interessa. Sicuramente quelle rumene o quelle polacche sono. Tu pensi un giorno mi ha chiamato questa qua dell'Enel, che non mi ricordo neanche che agenzia era esattamente. Mi ha detto, buongiorno signor Danilo, guardi abbiamo visto che lei ha le bollette che le vengono un pochino alte come prezzo. Ho detto, ma è sicura? Sì sì, abbiamo visto che le sue bollette sono alte, ma a me non mi risulta. Sì sì, guardi, noi possiamo fare l'offerta qui, lì, là, di quelli di 8 centesimi al mese, no, a kilowatt. Ho detto, ah, veramente? Ho detto, guarda che io sono un produttore, me. Come lei è un produttore? Io produco la corrente. E come la produce? Forse con la bicicletta, mi metto a pedalare con la dinamo, produco la corrente. No, guardi, sto scherzando, io ho i pannelli solari. Ah, c'è i pannelli solari? Sì, comunque guardi, io di me intestato non ho niente, neanche la luce, come fate voi a sapere che io pago molto di luce? Prende e mi chiude la chiamata. Tu pensa quanta gap ci ha fatto con questa persona? Sì, ma lo fanno apposta, loro lo fanno, perché poi cosa succede? Se vogliono far fare un contratto nuovo, magari con la Edison e altri tipi di compagnie che ci sono, io sono sempre con lei e con lei ne rimango, e così anche per il telefono di casa, sempre con la TIM e continuo e rimango, tanto è inutile stare lì a cambiare cosa, anche perché quando c'è un guasto poi queste compagnie così private, per così dire, quando li chiami non si vedono mai, passa un sacco di tempo, invece quando sei con la originale, diciamo, con la gestione originale, arrivano subito, nel giro di poche, al massimo un giorno. Ma se tu hai un guasto con una società che non è ad esempio l'Enel, ti fanno stare una settimana senza luce, ui, lasciamo perdere. No, quello sì, molti cosi ti fanno aspettare giorni e giorni, quello sì. Però quando mi chiamano ogni volta dico no, io sono un produttore, la produco io la corrente. E quindi iniziano già a calmarsi un pochino, quindi riescono a capire già che io bollette non ne pago. appunto, no, io a me stanno, è inutile stare a cambiare, ma cosa cambi, che tanto non ti regala niente nessuno, che sono tutte balle quelle che dicono. Sì, ci può essere qualche cosa, io addirittura c'è gente che le ha divolute le bollette, che aveva Enel, aveva, e poi aveva cambiato, gli arriva sia l'una che l'altra, non è tu, e me ne spaga, no, che aspetta? È la stessa cosa a casa da mio padre, mia madre aveva fatto un contratto nuovo, e come poi gli arrivavano la luce di una e dell'altra, una un mese e una l'altra, una un mese e una l'altra, ed erano bimestrali tutti e due. Infatti mi ha detto, ma io pago così tanto di luce, sono pagata il mese scorso che io sono bimestrale. Prendo, guardo la bolletta di una e dell'altra, gli ho detto, guarda che sono diverse marche. Come diverse marche? E mi guarda, una e l'altra. E una era 140 e l'altra era 120. Ma poca differenza di prezzo. E gliel'ho detto, chiama questa qua, gli dici che tu sei già con un'altra... ha chiamato e ci ha fatto disdire una cosa di bolletta, una compagnia, e da lì è iniziata a passare tranquilla e paga solamente una bolletta di luce. Ehi, buonasera, Alberto a questa parte, prima forse vi ho disturbato che provavo il microfono, che ero io quello che soffiava poco fa. E niente, qui Alberto Sassari, zona Viale Umberto, ero in prova con una vecchia radio Kenwood e quindi adesso dopo i saluti vi chiedo non un controllo, ma mi servirebbe una prova se è possibile in banda laterale, che mi sembra di avere i clarifer che non c'entra un bel nulla. Quindi ripasso chi mi ha mandato avanti e poi se si può fare questa provettina, chi può mi dedica un minuto. Ok, ciao Alberto. Giulio, da questa parte Giulio e compagnia di Danilo, io personalmente in questo momento non posso fare prova in banda laterale in quanto ho solo il baracchino che va in AM. Adesso sentiamo Danilo, se lui può farlo, vediamo un po'. Avanti Danilo. Sì, ciao. Se vuoi ti posso dare anche i controlli, radio, qua in banda laterale dove vuoi. Dimmi in quale frequenza vuoi entrare, in banda laterale oppure vuoi rimanere qua. Qua se non disturbiamo, se eravate solo voi un attimino anche qua. Io vi ricevo tutti e due con Santiago di Nove, una radio ottima, e qui in AM sto uscendo regolarmente? Sì, in AM sei a 9.30 a Radio 5. Ok, proviamo un attimino LSB, Lima Sierra Bravo, voglio centrarti, se mi fai un passaggio di un po' più lungo, insomma di una trentina di secondi, perché ho provato, c'era un po' di propagazione con la Spagna questi giorni, ma avevo grossi, mi sentivano, ma io avevo quasi l'impossibilità di centrare i miei corrispondenti, e mi sembra che il clarifer non stia lavorando come dovrebbe. Passiamo in LSB un attimo, per favore. Ok. Come on. tutto a posto, grazie. Ok, qua siamo in novembre, perfetto. Va bene, dai, vi saluto, grazie, scusate l'interruzione, che adesso rimonto un po' di fili che sto modulando col microfono aperto e praticamente tenendo i fili col dito, poi rientro per due chiacchiere se sono, se vi trovo ancora, grazie ancora. Ok, noi siamo qua. Vai Giulio. Ok. Ok, sono qua, sono tornato, mi ero assentato un attimino nel frattempo. Alberto, mi ha detto che sei la via Lombretto, confermi? Sì, confermo, zona, non proprio sul viale, ma a pochissima distanza. Ah, ok. Sì, mi sta andando bene, in AM mi arrivi molto bene. Saltavo 9.10, una cosa del genere, e qui va bene. Una bella radio anche, abbastanza pulita e chiara. Ma sei nuovo allora, Alberto? Non ti ho mai sentito, non, perlomeno non ricordo. Non nuovo con la radio, diciamo, ci siamo già sentiti comunque, sempre in prove, non modulo particolarmente, sono radio che avevo, che ho rimesso in giro e ogni tanto mi piace pasticciarci un po', vi ascolto e spesso, perché quando spazzolo così magari è ancora bello, Sassari, che i canali, il 10, il 23, diciamo che non è muta la CB, però ci siamo sentiti così sporadicamente e non abbiamo fatto grandi chiacchierate, probabilmente vi avrò chiesto ugualmente perché un controllo, ecco. E in che zona sei, per fare così, per capire se siamo vicini o no con questo segnale di 9 buono che abbiamo entrambi? Break, registrato il break, ma io sono alle punte 9.15 comunque, ho guardato bene lo smith, 9.15 mi stai arrivando tu, sì, forse mi ricordo, una volta forse hai modulato zona emiciclo Garibaldi, se ricordo bene, qualcosa del genere, tempo fa, ma è passato un bel po' di tempo, Va bene, dai, riprendi e fai entrare il break tu, vai. Certo, va bene, anche per te, 9.15, anche di picco qualcosa in più. Sì, avanti il break e io vado un attimino in stand-by per motivi di saldatore che devo usare a due mani. A più tardi, avanti il break. Ehi, salutoni circolari a tutti, dai, da questa parte, dai. Datevi un controllo con questa radiolina che l'ho rimesso in moto dopo secoli. Compressissimo l'audio, avanti Giulio, daglielo tu. Ok, sì, sei saturo, molto saturo del radio, prova a regolare qualcosa, di segnale anche basso, intorno ai 7 più che altro. Avanti ancora, Daniele. Saturo giù. Porca miseria, è tutto staccato qua. Sto usando il watt della radio, magari non so se è il microfono, bro. Aspetta, ci siamo sovramodulati. Daniele, ci sei? Sì, Giulie. Ho detto che sei saturo del radio. Santiago 7. E del radio sei saturo, regola la radio. Aspetta, Guarda adesso la salice giù. Adesso sei 9 e la radio ha migliorato un po', però non è ancora molto bella, non è perfetta, insomma, ecco. Guarda adesso, ora la cipolla. Adesso incomincia ad andare bene, adesso sei 9 centrato e la radio adesso è buona. Ti faccio dare il controllo anche da Danilo, vai Daniele. Sì, ciao Daniele, poco fa ci siamo sovramodulati che ti stavo dicendo che la radio era troppo incompressibile, però era bella forte come radio. E qua sei a 9.20 di segnale e adesso sei perfetto. Gappa di rosmetro, dai. Vuol dire che stavo usando pochi watt. Va bene, aspetta che abbassiamo appena. Guarda adesso, ora la cipolla. Sempre 9.20, adesso vai benissimo, non mi fai neanche sordo. Gappa, aspetta, mettiamo così. Perché stavo facendo le regolazioni, dai. Va bene, questa è la radio da battaglia, che è tutto spento, dai, riprendetevela che sto sistemando, dai. Ok, dai, già siamo qua noi. Vai Giulio. Ok, d'accordo Daniele, dai, se hai voglia siamo qua, così continuiamo il questione che abbiamo iniziato stasera un po' più presto. Sì, in effetti era così, usciva male all'inizio, ma poi già sistemato il tutto. Alberto, già me lo ricordo Alberto, sì, adesso pensandoci bene già me lo ricordo, che sento tanto tempo fa però ci eravamo sentiti. Comunque arriva molto bene qua, 9:15, una radio bella, pulita, tranquilla, pacifico. Avanti Daniele. No, Daniele non c'è, altro che rientra dopo. Io sono Danilo, ricordati Danilo, non Daniele. Comunque a me mi stava, io non me lo ricordo chi è esattamente, però mi arriva a 9:30 a me, invece in banda laterale 9:20. Ok, sì, beh certo, sì, da lì, beh certo, lì da te più vicino, già lo credo, io sono fuori, un po' più in là, evidentemente lì dalla tua parte è più vicino, poi se dice che è verso zona via Lomberto, cioè io mi ricordavo che la zona emiciclo più o meno, ma siamo lì, l'emiciclo di via Lomberto siamo lì, non è che ci sia poi questa grande differenza. Comunque arrivavo molto bene, adesso sta lavorando, sta saldando. Alberto, se per caso vuoi entrare dopo che hai finito con il saldatore, siamo qua, vediamo un po' se ci sia l'ascolto, se mi dai conferma. No, evidentemente ha staccato, dai, ha staccato. Oh Dani, c'è propagazione comunque. Sì, io poc'anzi avevo cambiato baracchino e per un attimo ho sentito anche in banda laterale, da me arrivava lo stesso bene, in banda laterale, in però LSB, in USB non ho fatto in tempo a regolarlo. Io avevo cambiato baracchino, poc'anzi avevo l'HB23, adesso sto usando il Cobra 139, per cui ho fatto il cambio dell'antenna velocemente, nel frattempo che voi lavate in banda laterale. Va bene, dai, avanti Dani. Ah, hai cambiato radio, No, comunque c'è sempre quella propagazione bassa bassa che si sentiva poco fa. Perché non c'è un commutatore per cambiare radio? No, ma intanto queste sono cose di emergenza che le uso solo in questo, sto aspettando che mi arrivi l'altra radio. Ancora non si vede, l'avevo mandata a riparare e ancora non si vede. Vediamo un po' se arriva domani, questa non li uso mai, difficilmente li uso. Li sto usando in questi giorni proprio perché non ho la radio come si deve, per cui però diciamo che bene o male già ci fanno ugualmente, non è che non ci fanno. Ho parlato anche in propagazione, per cui no. Già, però non mi piacciono, la verità, io sono abituato all'altra, per cui dopo tanti anni cambiare, sono stato costretto perché l'altra si era rotta e l'ho dovuta mandare fuori per la riparazione. E sto aspettando che me la rimandino indietro, tutto lì. Speriamo domani che arrivi. Dicono che l'hanno scritta già dalla settimana scorsa, ma ancora non si vede. Avanti, Danilo. Quando ci sono queste cose bisogna sempre aspettare. Soprattutto per le radio, bisogna sempre aspettare. Beh certo che sì, lo so, e anche perché c'è sempre questo problema della pandemia, del Covid, eccetera, eccetera. Poi c'era anche la festa del primo maggio di mezzo, c'era anche la domenica, poi insomma, tutte queste cose qua fanno sì che fanno tardare magari anche la spedizione, sarà per quello che adesso. Aspettiamo ancora domani, speriamo che arrivi domani, se non dopo domani non è un problema, ma prima arriva e meglio è. Anche perché ormai abbiamo, mi manca già dal giorno 8 mi sembra, se ricordo bene, del mese scorso, ti puoi immaginare, praticamente mi manca già un mese quasi. Addirittura un mese. Io pensavo una o due settimane. Cosa, come mai in assistenza a Giulio? Come mai? Perché ho dovuto spedire il continente, no? Mi ha dato una mano un amico, il continente l'ha spedito per ripararlo. E ancora non si vede. L'ha riparato, lui dice che l'ha spedito, ma lo spedizioniere, a quanto sembra, è un po' in ritardo, cosa vuoi che ti dica? Arriverà. bisogna avere pazienza. Allora, l'importante è avere la radio di riserva, di emergenza soprattutto. Tipo a me, se mi dovesse succedere qualcosa alla radio, devo portare l'assistenza, devo usare il veicolare che c'ho, che avevo prima nel camper, quello lì. Eh beh, certo, e io ne avevo tante, ne avevo, in tutto ne avevo 12, che vuoi immaginare, però li ho fatti fuori tutti, adesso me ne sono rimasti 3, me ne sono rimasti, per cui questi sono vecchi, e vabbè, funzionano, perché funzionano, non c'è problema. Anche poc'anzi, prima che arrivasse Alberto, avevo l'altro, come mi sentivi con l'altro? Suppongo bene come questo. Sì, sempre bene, uguale disco, ma io non so che tu hai cambiato radio, perché c'hai la stessa radio e lo stesso segnale, non ha cambiato niente. Eh beh sì, lo so, hanno la stessa potenza, sono baracchini, normalissimi, no? E con lo stesso microfono però, ho usato sempre lo stesso microfono, sarà per quello, la timbrica è sempre quella, sicuramente. Ho fatto solo cambio dell'antenna, che poi tra l'altro è abbastanza veloce da fare, perché svito uno, siccome c'è lo spezzone, cioè no, svito uno e attacco l'altro subito, è abbastanza semplice, tutto lì. Poi sono sempre collegati già all'alimentazione, non faccio altro che accendere e funzionano. Va bene, dai, però sto aspettando anche con ansia la radio, non il baracchino, la radio, che è quella che mi interessa, dai. Perché, anche perché mi sono molto affezionato a quell'altra. Una radio è tutta quanta un'altra musica, altro che baracchino, eh. Eh beh, direi proprio di sì, un'altra storia, già lo credo. Certo che poi... Questo vabbè, funziona, ripeto, funziona, ma ne ho dato meglio di questi, perché ne avevo 12 in tutto, ma non me ne facevo niente, cosa me ne facevo di tutti questi baracchini? Li ho fatti fuori tutti a uno, anzi addirittura un giorno ne ho dato 3 tutti in una volta, un camionista, avevo conosciuto un camionista che me li ha chiesti, e ha detto, sì che ce li ho. Ma togliamo così e così, e fammeli vedere, le fate vedere, e allora non me ne dai tre, avanti tutte e tre, prenditeli, e avanti anche per una miseria, non è che mi interessava più tanto, però tanto non mi davano fastidio più che altro, toccava stare sempre spolverando, ogni tanto dovevo spostare, mamma mia, ha giovato, oppure me li mettevo dentro lo scatolone e poi me li conservavo in massaggio, ma no, non ne voglio fare più di tutte queste manovre e movimenti, assolutamente no, non ho più voglia di stare lì a giocare, togli, metti, prendi, accendi, ma adesso vado avanti così e basta. Vai Dani. Conosciamo vedere molte radio, è così, è un macello, devi stare con uno, poi con l'altro, poi con l'altro ancora, in modo che i condensatori e tutti quanti gli altri componenti rimangano sempre belli carichi. Ma io ne voglio solamente uno e basta, poi non ho da stare attaccato a uno, poi all'altro, poi all'altro ancora. Già avevo il Galaxy e il 140 e stavo uscendo di testa, a volte non sapevo più qual era il microfono, quale dovevo prendere per accendere, per vedere i segnali e tutto quanto. Ma se c'ho questo qua mi tengo questo. Infatti conviene, quando ne hai uno o due va più che bene, tanto parlare dobbiamo parlare sempre 27, per cui che motivo c'è di avere tante baracchini, no? Vabbè, sono baracchini che ho avuto nel corso degli anni, non è che li ho comprati ieri, no? Ma per dire, ho dato il somma, il campo è bello, quello era anche bellino, tutti veicolari, ed era anche un bello coso, una bella radio, tante frequenze, cioè tanti canali aveva quello. Poi ho dato anche uno alla 78 Plus, ho dato quello nuovo, proprio nuovo di zecca. però, e ne ho un altro anche di quello, però quello che ho non mi funziona. Me l'avevo bruciato il lampo, un fulmine. Quello, vabbè, non l'ho mai dato, perché quello in quegli anni lì me l'aveva regalato mia figlia, saranno 3-4 anni fa. Il caso avuto, vedete, stavo lavorando, il giorno era una brutta giornata, è arrivato un fulmine e mi ha bruciato quattro cose, due baracchini, un alimentatore e più il router, anche il computer mi aveva bruciato. E allora quello ce l'ho sempre, quello Adlander 78 Ovo Plus, praticamente è un baracchino per tutta l'Europa praticamente. E non funziona più. C'è un nuovo di zecca, però ne avevo anche un altro, sempre nuovo di zecca, quello l'avevo dato da poco. L'avevo dato, ripeto, perché non me ne facevo niente, infatti ho pensato, ma tanto ho la radio, voglio come ne faccio tutti questi baracchini, non me ne frega niente. Uno ne ho qua, è l'HB23, quello me l'aveva regalato Claudio, tanto tempo fa, saranno 3-4 anni fa. Quello ce l'ho sempre, ma quello non l'ho mai, quello me lo tengo perché è un regalo che mi aveva fatto Claudio, per cui quello me lo tengo, capito? Ma per il resto poi tutti gli altri no. Che era quello che stavo usando poc'anzi, prima che arrivasse Alberto, stavo usando quello, l'HB23. Sì, ma la HB23 ha 23 canali, giusto? O sto sbagliando io? Sì, infatti, 23 canali, ed è per quello che avevo detto che non potevo passare in banda laterale, perché avevo solo la M e non potevo passare, per quello che avevo detto, capito? Mentre invece con questo, con Cobra, sarei potuto passare, ma non dovevo attaccare, non dovevo cambiare l'antenna e vabbè. Poi nel frattempo che voi siete passati, ho fatto, ma aspetta, tanto loro sono in banda laterale, allora poi ho cambiato l'antenna e ho messo quello, il Cobra, e ho fatto per il tempo a sentire Indy e l'USB, e per un attimo anche USB, ma con l'USB non lo sentivo bene, in l'USB lo sentivo bene, anche a te si sentivo benissimo, mentre invece l'USB non, vabbè, poi avete cambiato di nuovo e allora sono passato anch'io in AM di nuovo, capito? Comunque quando ti metti a modulare giù si sente un rumore, non so cosa sia, però si sente molto, come un sottofondo, da. No, in banda laterale come mi sentivi? Forte, potente?